Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buona serata a tutti. Allora, bentornati. Quattro ruote e dintorni ogni sabato vi fa compagnia per circa tre quarti d'ora interamente dedicati ai motori, auto, moto, insomma chi più ne ha più ne metta, per cercare di realizzare così dei percorsi che non siano solo geografici o stradali ma anche di conoscenza intorno ai nostri motori. Il tutto nel rispetto più possibile. Bisogna arrivare alla perfezione della sicurezza, il rispetto per l'ambiente, il rispetto per gli altri. Parleremo un po' questa sera di etica del la guida, non ne parla nessuno, un po' come etica della comunicazione 10 anni fa, oggi se ne riempiono tutti la bocca, poi bisogna capire se uno veramente eticamente è bravo a guidare o meno. Detto questo, vi racconto velocemente cosa faremo questa sera. Abbiamo un'auto eccezionale, nel senso che è un'eccezione averla come prova, un'auto che ha segnato un record nelle votazioni di quattro ruote, la BMW serie 7 nuova, in particolar modo la 750L, che è anche più lunga del previsto di ben 14 centimetri. Stiamo parlando insomma della limousine tra virgolette della BMW, l'ammiraglia. Poi il futuro della benzina. Shell ci fa compagnia con Giuseppe D'Arrigo, il direttore della rete italiana. Parleremo con lui del futuro della benzina. Credo e mi auguro una chiacchierata molto interessante anche per voi. E poi le supercar. Ferrari California nelle mani di Marco Perucca e Formula 1 a Monte Carlo. Da una parte la Ferrari California ci fa sognare, dall'altra la Ferrari segna una delle crisi più profonde della sua storia sportiva, ma come ogni storia, insomma, poi si ristabilirà alla grande. Carlo Cavicchi ne parlerà insieme a noi. Chiuderemo parlando con l'avvocato Erika Lievore di che cosa succede se, andando per strada, per esempio rompete un cerchio in lega molto costoso se prendete una buca, quindi per una colpa non vostra. Buona serata ad Alessandro Carcano. Buonasera Roberto e una buona serata a tutti gli ascoltatori. Ci fa compagnia Alessandro dalla redazione di Quattro Ruote. Con lui abbiamo il piacere di guidare, dicevo, un'auto davvero particolare. Lo facciamo come sempre via radio, cercando di farvi vedere quello che non si può vedere, ma cercando di farvi sentire e toccare tutto ciò che è BMW serie 7 questa sera. Vuoi fare tu una breve introduzione a quest'auto, Alessandro? Guarda, brevissimo, 119.000 euro, quindi già si capisce il livello dell'auto. Un'auto che però, ecco, voglio dire subito questo, molti pensano che auto del genere siano solo magari di rappresentanza o berline da manager, magari da far guidare all'autista. Invece, poi ne parleremo con calma, sono auto che danno anche un certo piacere di guida e vale la pena mettersi al volante di auto del genere. Decisamente. Allora ascoltiamo la prima scheda che ci introduce nel mondo della BMW serie 7 nuova. BMW 750. Con i suoi 5 metri di lunghezza, la nuova BMW serie 7 rischia di essere relegata al ruolo di auto di rappresentanza. In realtà, bastano pochi metri al volante per sentirsi a proprio agio e dimenticarsi delle sue dimensioni e della sua stazza. Non per niente ha ricevuto le 5 stelle d'oro nel comportamento stradale, merito del piacere di guida che si accompagna a una capacità davvero straordinaria di fronteggiare le situazioni d'emergenza. Eleganza e comfort, come sempre, sono da riferimento. Nome: BMW 750i Eccelsa. Carrozzeria: berlina a 4 porte a 5 posti. Dimensioni: lunghezza 5 metri e 7 centimetri, larghezza 1 metro e 90. Motore: anteriore e longitudinale 8 cilindri a V. Potenza: 407 cavalli. Trasmissione: trazione posteriore. Cambio automatico a controllo elettronico a 6 marce. Prezzo: 112.331 euro. Allora, entriamo nell'abitacolo di quest'auto meravigliosa. Alessandro, qual è la prima sensazione che si percepisce all'interno? Beh, chiaramente il lusso, la comodità sia per i sedili sia per tutti gli accessori tecnologici che sono a portata di mano, a portata di dito anzi. Devo dire che appena accomodati appunto al volante ti viene subito voglia di metterti in moto e anche di affrontare viaggi lunghi e interminabili, proprio perché non ti staccheresti mai. La cosa che sorprende, chiaramente ma anche per proporzione al costo, sono gli optional, una serie infinita che spaziano dall'intrattenimento alla sicurezza. Ne cito soltanto alcuni: il night vision, la telecamera infrarossi che anche al buio fa vedere ciò che può fuori dalla portata dei fanali, l'head up che proietta le informazioni principali della strumentazione direttamente sul parabrezza, così non si staccano mai gli occhi dalla strada, e il sistema che frena automaticamente nel caso di una collisione imminente di cui l'automobilista non si è eventualmente accorto, e il dispositivo che fa vibrare il volante se si superano per esempio le linee della propria corsia. Pensate addirittura che quel sistema che vi raccontava Alessandro è a tal punto evoluto, e poi si troverà immagino su tutte le auto, ma domani, non oggi, che utilizza dei sensori e delle microcamere con effetto termico, hanno una sensibilità termica che riesce a cogliere tutti gli ostacoli, per esempio un bambino, un gatto, una persona che eventualmente il faro non illumina. Siamo veramente ad un livello altissimo di tecnologia. Però un'auto anche che si guida, Alessandro, ha diverse motorizzazioni, certo consuma tanto, se vogliamo fare le pulci ovviamente questa è la voce, se ha senso parlare di consumo per un'auto che costa 120.000 euro. Esatto, diciamo che un 8 cilindri con due turbine e 407 cavalli non ti regala grandi emozioni a livello di prestazioni, cito lo 0-100 in 5-3 secondi, ma è chiaramente un'auto che non ha occhi di riguardo per i consumi. Si fanno circa 13 litri per 100 km, quindi circa 7,5 km con un litro. Senti Alessandro, domanda spinosa per te. Sai che uno dei punti deboli di queste auto nel passato era la massa inerziale che si portavano dietro. In un destra-sinistra, come chiamiamo le curve ravvicinate e a una velocità non troppo eccessiva, c'era un trasferimento di carico così lento che nella seconda curva l'auto stava ancora scaricando l'inerzia dalla parte opposta, e questo creava problemi di stabilità enormi, a tal punto che certe auto, insomma, veniva sottolineato che fossero costruite e progettate per andare a meno di 50-60 km orari per scopi di rappresentanza, vedi ministri, G8 eccetera. Come siamo messi a questo livello? La BMW è sempre stata un'auto molto attenta alla sportività. Esatto, diciamo che ci sono due caratteristiche principali di quest'auto che la rendono praticamente incollata alla strada. Innanzitutto le sospensioni, che contribuiscono a eliminare quasi del tutto rollio e beccheggio. In secondo luogo ha questo sistema delle quattro ruote sterzanti che consente sia di avere un retrotreno agile e quindi veloce nei movimenti, ma anche granitico nell'opporsi eventualmente al sovrasterzo che si può innescare durante le manovre di emergenza, oppure appunto nelle curve contro curve, nelle chicane che si possono affrontare a velocità elevata. Molto bene, allora diamo i voti a questa BMW Serie 7 e torniamo per salutarci. Posto guida. Il solito splendido cockpit, capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi automobilista. I tasti per le regolazioni, elettriche ovviamente, sono tornati al classico, per posizione e logica di funzionamento. 5 stelle. Finiture. Difficile fare di meglio. Difficile chiedere di più, anche tenendo conto della quantità di denaro che c'è in ballo. La cura è maniacale fino all'ultima vite e non c'è lente di ingrandimento che possa ribaltare questo giudizio. 5 stelle. Comfort. Col Driving Dynamic Control, l'assetto si adatta alle situazioni e ai desideri di chi guida. Quando non è inavvertibile, il rombo del motore è gradevolissimo. Spesso è coperto dal rumore di rotolamento dei pneumatici. 5 stelle. Su strada, le quattro ruote sterzanti la rendono agile e piacevole, ma danno un bel contributo anche quando si decide di metterla in difficoltà. Grazie anche all'ESP davvero ben tarato, il guidatore recupera l'assetto senza apprensioni. 5 stelle d'oro. Consumi. Da un V8 con due turbine e 400 e passa cavalli non si possono certo pretendere miracoli. Visti i presupposti, si può dire che la 750 fa quello che può. E già a 120 orari si è sotto la soglia psicologica dei 10 con un litro. 3 stelle. E a proposito di pagella, una chicca finale che vi fa capire quanto severi siano anche i giornalisti di quattro ruote. Alessandro, c'è un record. C'è un record che ha segnato questa BMW Serie 7, vero? Senso che ha preso 97 su 100, che è il voto più alto mai pubblicato da quattro ruote per una prova su strada. con una particolarità, le 5 stelle d'oro nel comportamento stradale. È una particolarità perché, abbiamo detto prima, la mole, la lunghezza farebbero pensare a un'auto impacciata. In realtà il piacere di guida, unito alla capacità per i sistemi di cui abbiamo parlato prima di fronteggiare le situazioni di emergenza, si sono meritate proprio il massimo dei voti anche nel comportamento stradale. Molto bene, allora ringraziamo Alessandro Carcano di Quattro Ruote, a presto e buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Per maggiori informazioni naturalmente esistono i siti di Quattro Ruote, quattroruote.it, e poi quelli di BMW che sono facilmente trovabili come quelli delle altre case automobilistiche, e radio24.it per riascoltare, se vorrete, le schede che abbiamo preparato. Sarà tutto sul web da lunedì, è sufficiente andare nel segmento delle trasmissioni Quattro Ruote e dintorni. Quattro Ruote e dintorni. Allora, come preannunciato, adesso tocca al futuro. Abbiamo parlato del presente con la nuova serie 7 della BMW, provata oggi insieme a Quattro Ruote. Adesso parliamo del futuro, non tanto in campo strettamente auto a livello di modelli, ma soprattutto in quanto a carburante. Ci siamo occupati nelle ultime due settimane dei carburanti alternativi. Ritorniamo indietro un attimo, facciamo il futuro della benzina, perché sebbene sia un futuro abbastanza a corto raggio, però questo futuro a corto raggio, insomma, come tutte le orchestre che finiscono di suonare, alla fine finiscono col botto. E allora abbiamo al telefono il direttore della rete italiana di Shell, Giuseppe D'Arrigo, che saluto. Buonasera, direttore. Buonasera Roberto, e buonasera anche a tutti i vostri telespettatori. Io, direttore, ho sentito parlare di benzina molecolare, di tecnologia molecolare per il carburante del domani. Poi parleremo del dopodomani, però concentriamoci su questo. Mi fa il punto della situazione della tecnologia oggi a livello di carburante? Le ricordo che noi 2 anni fa abbiamo parlato del V-Power, dove era la novità qualche anno fa, insomma il massimo numero di ottani raggiungibili, un ottimo scoppio. Che cos'è la benzina molecolare? Mi fa molto piacere che ricordate ancora quelle che sono le caratteristiche del carburante che noi abbiamo per primi introdotto in Italia, relative appunto al miglioramento delle prestazioni del motore, dei 100 ottani, ma anche del GTL per quanto riguarda il nostro V-Power diesel. Noi oggi abbiamo deciso di spostarci anche sulla base dell'esperienza che facciamo ogni giorno e ogni volta che corriamo insieme a Ferrari, sì, o ad Audi sui circuiti, a un altro livello di prestazione. Abbiamo deciso di andare più a fondo nella ricerca e anche nel rapporto tra l'elemento del combustibile. In pratica, non vorrei usare termini troppo tecnici, però in effetti l'ingegnere molecolare in questo caso si applica ai componenti base della benzina, che sono le paraffine, che sono le olefine, che sono gli, sì, aromatici, che sono gli ossigenati. I subcomponenti di questi prodotti sono quelli che poi noi abbiamo cercato di manipolare, in alcuni casi anche di travolgere, di modo che in ogni macchina, in ogni situazione, il motore possa rendere al massimo. Per fare un esempio specifico, nel caso della benzina, questo vuol dire aiutare lo scoppio a essere anticipato rispetto alle normali condizioni. Questo permette di migliorare la performance. La benzina brucia prima, brucia in modo più integrale, e quindi anche la resa del motore in termini di efficienza, in termini anche di risparmio, di utilizzo del prodotto, è migliorata. Ecco, la macchina ha più potenza e dura un po' di più, insomma, quella tracciabilità della benzina che consente di percorrere, esatto, qualche centinaio di metri, qualche chilometro in più, dipende poi dai conti e dai litri di benzina, evidentemente. L'ho lasciata parlare perché so che non è facile provare a descrivere in termini semplici quello che in realtà è complicatissimo, però volevo anche far assaggiare agli ascoltatori che tipo di studi ci siano dietro a quella che tutti consideriamo una normalissima benzina, no? Mi dica la verità, quanto essere parte delle corse vi aiuta? Lei sa che c'è un po' di polemica in chi dice che ormai la Formula 1 non serve più realmente alle macchine per inventare qualcosa di nuovo, ma serve soprattutto come immagine. A livello di benzina? Ma questo per noi è fondamentale, perché in effetti solamente testando le nostre capacità in situazioni estreme, come quelle per esempio di una corsa in Formula 1, ma anche una corsa di endurance, per esempio come quella di Le Mans o di MotoGP, noi riusciamo in effetti poi a migliorarci. Noi abbiamo circa un gruppo di persone, che è fatto circa di 10 persone dedicate per ogni gara con Ferrari, ma dietro queste c'è un gruppo di altre 50 persone che nei laboratori di Thornton in Inghilterra, dove abbiamo la raffineria, fanno circa 25.000 ore di ricerca e sviluppo ogni anno solo per dare a Ferrari, nel caso specifico, un prodotto performante che varia di gara in gara. Poi queste competenze che qui vengono sviluppate permette a Ferrari, per esempio, di avere un'ottimizzazione della velocità e di anche di scivolamento del pistone nella camera di combustione. E questo permette di ridurre l'attrito e di migliorare la performance. Sì, perché libera energia meccanica importante e la trasferisce evidentemente in modo più efficace dal carburante al motore, tutto un ciclo completo che migliora la performance dei nostri motori. Domandina finale, un po' di provocazione, me la consente, direttore, il petrolio ha le ore contate, mettiamola così, le aziende come Shell che cosa stanno facendo oltre che a massimizzare lo sforzo tecnologico per le benzine di oggi? State studiando per esempio l'eolico, l'elettrico, l'ibrido, oppure alla fine del petrolio finirete anche voi? Il nostro obiettivo è quello di riuscire a dare delle risposte in termini di energia alla società e ai nostri clienti in particolare, ma questo ci piace farlo oggi in effetti. Credo che noi abbiamo sviluppato negli anni un vantaggio competitivo che è anche un beneficio anche per i consumatori. Noi siamo leader a livello mondiale nello sviluppo dei biocarburanti di seconda generazione, che sono quelli che hanno una resa tecnologica ed energetica maggiore, ma hanno anche la migliore sostenibilità, perché utilizzano, come forse sa, la parte di scarto delle piante, per cui non vanno a incidere neanche sulla catena alimentare. Ma quello che noi abbiamo oggi, mi piace ricordare, per esempio in V-Power Diesel abbiamo una componente che si chiama Gas to Liquid, o GTL, sì, che praticamente permette al gas naturale di essere trasformato in idrocarburo liquido, che è più pulito e che ha una resa combustibile migliore. Migliore, un'altra chiaro. Cosa che devo dire, giusto come curiosità, questo prodotto viene fatto in uno stabilimento al mondo che è in Malesia. Grazie a questo punto a Giuseppe D'Arrigo, direttore della rete italiana di Shell. A presto e buona serata. Ma grazie a voi e ai vostri ascoltatori. Rimaniamo in campo di performance, perché adesso dobbiamo parlare di supercar, e allora iniziamo una serie di 5 puntate. La prima è dedicata alla Ferrari California, nuovo gioiellino del cavallino rampante di Maranello. L'ha provata Marco Perucca di Quattro Ruote. Buona serata, Marco. Ciao Roberto e buonasera a tutti i radioascoltatori. È beato tu, caro Marco, che puoi vivere questi sogni. Partiamo subito alla grande, abbiamo parlato appena ora di Ferrari con Shell. Rimaniamo in campo rosso di Ferrari Maranello, perché la California, l'ultimo frutto degli ingegneri e dei progettisti, è stata fra le tue mani. Che tipo di auto è, Marco? Beh, direi che come tutte le Ferrari è un'auto straordinaria, non c'è dubbio. A Maranello volevano fare un gran turismo, essenzialmente un gran turismo Spider Coupé, e che però avesse quelle prestazioni eccezionali, straordinarie di ogni Ferrari, che desse quel divertimento, quel piacere di guida. E il risultato direi che c'è, insomma, ci sono riusciti ancora una volta, hanno vinto questa sfida che non era sicuramente facile. Sono partiti praticamente da un foglio bianco e la macchina è notevole. È molto attesa, vero Marco, quest'auto? È molto attesa dai tanti fan. So anche che ci sono in giro delle prenotazioni a pagamento, credo circa 30.000 euro, che insomma, o sono esaurite o sono in via di esaurimento, e gente che già lo prende come un investimento. Ma sì, pare che la produzione dei prossimi 2 anni sia già stata tutta venduta alla faccia della crisi, come si dice. E comunque tanti dei clienti Ferrari generalmente le comprano tutte, poi sono quelle persone che non solo ne hanno una, ma le hanno tutte, e quindi se la prenotano e poi l'aspettano. Senti, parliamo un attimo di comportamento di guida. Come si fa a giudicare un'auto come la Ferrari dopo gli ultimi modelli usciti negli scorsi anni, che già raggiungevano un'eccellenza nel loro settore? Questa è un'auto diciamo diversa dalle ultime Ferrari che abbiamo provato, no? È molto più gran turismo, senza nulla perdere però di quella cattiveria che deve avere una Ferrari. Quindi c'è il motore davanti, è un motore essenzialmente nuovo, deriva da quello della 430, però rivisto nelle misure, con l'iniezione diretta che garantisce più coppie, diciamo una maggiore disponibilità di coppie a basso regime. E poi c'è un cambio completamente nuovo, anche questo sviluppato apposta per la California, che poi probabilmente troveremo anche su altri modelli. Certo, è veloce? È veloce, certo che è veloce, noi abbiamo fatto i 311 a vettura chiusa, ovviamente. No, dicevo se il cambio è veloce, però anche la velocità va benissimo come rilevazione. Il cambio ha una cambiata veloce? Sì, certo. Il cambio, appunto, dicevo, dopo tanti anni di cambi elettroattuati, loro hanno investito sul doppia frizione, che è una tecnologia nuova per la Ferrari, e hanno soprattutto lavorato tanto per ridurre i tempi di esecuzione, perché la doppia frizione garantisce già un passaggio marcia velocissimo, praticamente con tempo di cambiata nulla, però il tempo di esecuzione in questo caso è veramente ridottissimo, solo 20 millisecondi, quindi da quando si tocca la paletta del cambio a quando si sente il cambio marcia trascorrono solo 20 millisecondi. 20 millisecondi, incredibile. Sì. Senti Marco, parliamo di un'ultima cosa e dobbiamo salutarci. Il tetto, intanto un tuo giudizio sul tetto rigido, importante questa innovazione, prima volta in Ferrari, e poi ti chiedo se il tetto va a inficiare la parte di bagagliaio o no. Dunque, il tetto rigido è una scelta importante, perché praticamente fa di un'auto due auto in una, cioè è una Spider, è una coupé, quando è chiusa il comfort è decisamente più elevato e via così. Si ripiega in soli 14 secondi e questo è un altro tempo record, direi, per questo genere di tetti, e in più questa è una Ferrari Gran Turismo, diceva, ha un bagagliaio degno di questo nome. Ci stanno, noi abbiamo misurato 275 litri a vettura chiusa, e quindi in più c'è dello spazio dietro ai sedili anteriori, e si possono avere le valigie, quelle ovviamente fatte apposta su misura da schedoni, con le cinghie, oppure addirittura anche i seggiolini per bambini. Quindi è una Ferrari che si presta a un uso anche quotidiano per chi può farlo, o comunque Gran Turismo, diciamo, per un weekend o per un viaggio. Bene, grazie per ora a Marco Perucca di Quattro Ruote, a presto e buona serata. Bene, buona serata a tutti e alla prossima. Quattro Ruote e dintorni. Allora, l'ultima parte del nostro programma è divisa in due. Prima il nostro avvocato Erika Lievore, che ci fa compagnia fra qualche secondo. Parleremo con lei ancora di codice della strada, un caso avvenuto al nostro amico Antonio di Napoli, che ha scritto a quattroruote@radio24.it. E poi chiuderemo in bellezza, visto che ci avviciniamo ad uno dei momenti più importanti del calendario annuale del Circus della Formula 1. Domani si correrà a Monte Carlo, sentiremo Carlo Cavicchi, esperto tra l'altro di Formula 1 e da poco vice direttore dei nostri amici di Quattro Ruote. Allora, partiamo intanto dall'avvocato con una premessa. Antonio ci ha scritto, insomma, gli è successa una cosa strana, stava viaggiando su una strada della sua città, ha preso una buca inavvertitamente che era non segnalata sulla strada, ha sentito un colpo enorme, è sceso, si era venato, si era rotto il cerchio in lega della sua auto. Tra l'altro i cerchi in lega sapete che costano un sacco di soldi. Ecco, lui ci chiede che cosa fare. Ne approfitto per dare un piccolo consiglio di guida che gli amici di Quattro Ruote, ma tutti coloro che si occupano di scuole guida, guide sicure, insomma, ci elargiscono sempre con grande generosità. Quando la buca è improvvisa e non ce ne accorgiamo, evidentemente a quel punto non si può far più niente, il buco è preso. Quando c'è un dosso, quindi non un vuoto ma un pieno che va dalla superficie del pavimento verso l'alto, un dosso, pensate un ostacolo, uno di quei rallentatori, mi raccomando, arrivate su quel dosso, su quello ostacolo, non con il piede sul freno. Perché? Non perché così fa meno male all'auto, si riduce la velocità. È vero, bisogna frenare, ma fino a qualche metro, qualche centimetro prima del dosso. Poi bisogna rilasciare i freni in modo tale che l'auto non sia caricata nell'anteriore affrontando il dosso. Facendo così, il dosso, diciamo, influenza meno il comportamento della nostra auto, soprattutto pesa meno sull'asse anteriore. Quindi una bella frenata prima del dosso, rilasciare il freno prima di incontrare il dosso, superare il dosso e poi pelo di gas e via. Anzi, il pelo di gas si può dare subito per trasferire al posteriore invece il peso dell'auto. Una volta uscito con l'asso posteriore dal dosso, allora poi si può riprendere la marcia. State attenti perché i rallentatori alle volte, specie se disegnati in maniera sbagliata, fanno danni incredibili. A questo punto allora il nostro Antonio ha preso una buca, ha rovinato il cerchio in lega, allora abbiamo chiesto al nostro avvocato Lievore che cosa deve fare. Allora, per i danni di questo tipo, causati possiamo dire da inefficienze di manutenzione stradale, la Corte di Cassazione, con la sentenza 20.427 del giugno 2008, ha definitivamente stabilito che i comuni sono i responsabili per i danni derivanti ai veicoli. E la Cassazione ha quindi stabilito che il danneggiato deve in ogni caso dimostrare che il fatto fatto si è verificato a causa di un'anomalia della strada e che quindi è direttamente collegato ad una inefficienza o a una disfunzione del manto stradale. Eh beh, certo, e a questo punto allora che cosa possiamo consigliare al nostro ascoltatore o a tutti coloro a cui può succedere qualche cosa di questo tipo? Diciamo grave, perché comunque un ascoltatore sta guidando, un automobilista diligentemente percorre la sua strada e per colpa non sua, quindi per una motivazione esterna al suo comportamento di guida, riceve un danno. Avvocato. Allora, per dare un consiglio pratico, diciamo che in un caso di questo tipo innanzitutto bisogna fermarsi, rimanere sul posto e chiamare i vigili in modo tale che questi ultimi procedano agli accertamenti necessari e fotografino il cedimento eventuale della strada. Una volta fatto ciò, il nostro ascoltatore fotografa il danno subito al proprio veicolo e conserva le fatture delle riparazioni che sono state necessarie a causa di questo danno. Dopodiché procederà a chiedere il risarcimento inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno al comune o diciamo meglio all'avvocatura comunale. Nel caso in cui invece si trattino di strade provinciali, la raccomandata verrà inviata alla provincia e per le strade statali verrà fatta una richiesta di rimborso direttamente all'ANAS. Se invece il nostro ascoltatore a questo punto, avvocato, non ottenesse il risarcimento richiesto oppure fosse soddisfatto fino ad un certo punto di quanto ottenuto, pensi se il danno fosse di 1000 euro e gli fosse proposto un risarcimento di 300 euro, ecco per esempio, che cosa deve fare? Beh, a quel punto il nostro ascoltatore con in mano le effettive ricevute dei pagamenti, le fatture dei pagamenti effettuati per diciamo così la riparazione potrà eventualmente rivolgersi a un'associazione di consumatori per richiederne il patrocinio o comunque rivolgersi ad un legale per far valere le proprie ragioni. Grazie davvero all'avvocato Erika Lievore, vi ricordo la nostra email per raggiungerla, per raggiungere la nostra redazione, 4 scritto in numeri, ruote@radio24.it. Chiusura in bellezza della nostra trasmissione, vi dicevo prima, visto che arriviamo a uno degli appuntamenti più caldi del Mondiale di Formula 1, ci fa compagnia un grande conoscitore del Circus, Carlo Cavicchi, da poco anche vice direttore dei nostri amici di Quattro Ruote. Caro Carlo, allora buonasera e benvenuto. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Anzi, bentornato, perché già una meta l'abbiamo raggiunta 3 settimane fa facendo il punto della situazione su questo in parte calendario, su quest'anno veramente particolare. Intanto ti chiedo, vista la gara di domani e l'importanza che ha, se ti aspettavi quest'anno di arrivarci con così tante polemiche. Credo 6 mesi fa fosse impensabile. Ma sì, è veramente impensabile. Il problema è che in ballo c'è il rinnovo del patto della Concordia, quindi è il momento topico per molte squadre per decidere quelli che saranno i loro incassi. Quindi noi vediamo da fuori delle battaglie tecniche, in realtà le battaglie sono di quattrini. Sono più politiche, tu dici, certo. Che altro, certo, con gli accordi. So che è impossibile, ma forse non è neanche utile, che gli ascoltatori, sebbene il programma sia fortemente orientato ai motori, sappiano tutte le sigle delle federazioni, eccetera. Però ci puoi descrivere, solo aiutarci a capire chi sono i principali attori in campo? Io sento parlare di Bernie Ecclestone, sì, ma sento tre. Parlare di FOTA, di costruttore. Sono tre, esattamente. La FOTA è la federazione, la Formula One, la sezione dei costruttori, la FIA è la federazione automobilistica mondiale, quindi quelli che li fa correre, che fa i regolamenti, e Bernie Ecclestone è quello che gestisce tutto il sistema con la sua organizzazione, che è poi quella che fa fruttare e girare i soldi che fanno comodo a tutti. Quindi di fatto abbiamo un vero padrone che è Ecclestone, un padrone ufficiale, la giacca blu, che sarebbe Mosley, quindi la federazione, e le squadre che lottano tra di loro ma insieme per avere vantaggi per loro. Sono ingranaggi come quelli di un motore che si accende a meno 7 gradi, insomma, che ogni tanto hanno bisogno di essere oliati, perché evidentemente ci sono questi problemi. Parliamo un secondo di Ferrari, è messa male a questo punto della classifica e del calendario, stanno cercando di fare di tutto, è evidente, però c'è un'altra ultima notizia, vero? Un rigetto di un ricorso. Sì, in tribunale. Il problema vero è questo: la Ferrari ha avuto troppe disavventure tutte insieme e questo preoccupa molto, perché la Ferrari in questo momento va in tribunale e perde, va al Consiglio Mondiale e perde, fa parte, le macchine non vanno forte, le macchine si rompono, i piloti non sembrano i più veloci del lotto e la squadra commette errori che in passato non commetteva mai. È la somma di tutte queste cose negative che deve agitare gli appassionati, non il singolo fatto, perché una cosa poteva andare storta, tutte insieme sono veramente qualcosa di anomalo. Certo, e poi non è certo la prima crisi nella storia della Ferrari, poi brillantemente ricucita, per cui insomma è chiaro, lo sport è fatto così. No, ma la Ferrari ha tutto in sé per rimediare e farlo anche in fretta, questo deve essere chiaro. È certo che tante cose così insieme non se l'aspettava nessuno, penso ovviamente nemmeno loro. E beh, chiaro, pensiamo a tutti i campionati vinti con Schumacher in quegli anni d'oro, insomma è chiaro che è difficile prospettare in quei momenti. Quando si è primi, diceva qualcheduno, non si può che diventare secondi, è una delle situazioni più difficili. Parliamo un secondo di Monte Carlo, ci descrivi secondo te i due, tre punti, tu che conosci bene quel circuito su cui ogni tanto viaggi anche in macchina quando non è chiuso, quali sono i due o tre punti in cui si può fare la differenza con le macchine di oggi, Carlo? Il problema è dividono in due, si fa la differenza nel tratto misto delle piscine lì e conta molto, ma non si supera mai lì, quindi per fare il tempo bisogna farlo molto forte nella parte, diciamo, sul mare, tutta la parte che costeggia il mare. Per superare invece bisogna usare la curva di Santa Devota, che dopo il traguardo, la prima curva che c'è. Poi bisogna arrivare al tornante del Mirabeau, che è il primo tornante stretto dopo il Casinò, e il ritorno indietro, quello che si chiama dell'Oeuvre, alla vecchia ferrovia. E poi l'unica possibilità è quando si esce dal tunnel, che è il tratto più veloce, che si arriva anche lì alla chicane. Chi può provare a superare lì. In altri punti, se non c'è un errore, è impossibile passare. Molto bene, allora un'ultima domanda e ci salutiamo, un tuo pronostico per domani, non posso non chiedertelo, un nome o una squadra? Ma mi sembra talmente in palla in questo momento Button che mi aspetterei che faccia ancora bene, perché non c'è niente che dà più fiducia ai piloti come venire nei momenti in cui tutto funziona. Direi che lui resta un pilota molto interessante, poi è una pista questa dove chi guida conta, e quindi gli Alonso, gli Hamilton e speriamo un ferrarista potrebbero dare la loro zampata. Molto bene, grazie di cuore a Carlo Cavicchi che salutiamo, allora buon gran premio domani, grazie. Sì, grazie Carlo, e vi do appuntamento naturalmente a sabato prossimo con una piccola sfida, potremo giocare il sabato prossimo insomma cercando di capire come finirà questa stagione, se volete apriamo una specie di discussione su quattroruote@radio24.it, io riferirò le vostre risposte, i vostri pronostici, non ha assolutamente valore statistico, la cosa è fatta in casa come si dice, però mi piacerebbe sentire il polso della situazione dei tifosi, chi crede in Ferrari, chi crede in James Button, chi crede nella rivolta di Hamilton, insomma vediamo che cosa succede, credo sia un campionato fra MotoGP e Formula 1 quest'anno davvero interessante. Allora l'appuntamento è per sabato prossimo, www.radio24.it il sito di riferimento e la nostra email 4ruote@radio24.it. grazie davvero Giacomo Spunta che è rimasto con me in regia, a voi che ci avete scelto, buona continuazione con i programmi di Radio 24. Roberto Rasia vi augura soprattutto una buona guida.